Radio 24 Reportage. 5 Terre e la Via dell'Amore, un patrimonio fragile di Andrea Ferro. È una verticalità lungo la quale non c'è spazio per un bordo regolare, è una geometria che non contempla profili convenzionali. Qui tutto è terra in bilico e subito mare, con gli orizzonti in fuga e le case puntellate su strisce sottili come torrette a formare borghi schierati in prima linea, paesi irregolari e guardinghi. Non ci sono più i pirati, ma la resistenza continua di fronte alla commistione degli elementi che perpetuano le insidie. Da una parte le onde che levigano questo pezzo di Liguria, dall'altra i movimenti di una terra che a fasce sembra appena incollata sul precipizio. E ancora dal cielo le bombe d'acqua sganciate da un'atmosfera che cambia. Cinque Terre, patrimonio dell'umanità celebrato dall'UNESCO, fragile e tentacolare. Gioiello in vetrina come un cristallo che solo a vederlo hai paura di rompere. Borghi che sanno di salmastro e di sciacchetrà, vino millesimato dalla fatica. L'uva si trasporta con le barche e i trenini delle cremagliere che seguono percorsi arroventati. I camminamenti sono lembi sottili sui quali incombono le frane. Il sentiero più celebre è la Via dell'Amore. Il percorso è sbarrato dal 2012, dopo che uno smottamento investì una comitiva e la tragedia fu solo sfiorata. La Via dell'Amore come simbolo plastico di una grande bellezza, inestimabile e precaria, che da tutto il mondo da sempre si viene ad ammirare, ma mai così in tanti come negli ultimi anni. Solo nel 2015 i visitatori delle Cinque Terre sono stati 2,5 milioni, l'80% stranieri. 2,5 milioni di persone su un territorio con neppure 5,000 residenti. Troppa gente, secondo chi invoca criteri di selezione. In questo conflitto di dimensioni si accende il dibattito sulla prospettiva, su come preservare il patrimonio comune al di là della convenienza spiccia, dei campanili che qui rintoccano sempre. Il racconto delle Cinque Terre è così in questo dilemma: voci e sensazioni, speranze e insofferenza, progetti e minacce. A Manarola, nella sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, incontriamo il presidente Vittorio Alessandro, un ammiraglio in congedo reclutato d'urgenza dal Ministero dell'Ambiente per tenere la barra dritta e chiudere le pagine di un passato ingombrante, intrighi e condanne all'ombra della struttura che ora dirige lui. Parliamo di un territorio la cui fragilità è fatta non soltanto da un assetto idrogeologico molto particolare, dipendenza sul mare, di falesie attive, ma anche una fragilità sociale, in quanto nel giro di pochi anni si è trasformata decisamente la struttura sociale delle Cinque Terre. L'agricoltura ha ceduto il passo al turismo e questo ha determinato degli effetti sui quali bisogna lavorare. È cambiato che ha avuto una fortissima incidenza l'immagine delle Cinque Terre in tutto il mondo. Questo fascino, questo feeling delle Cinque Terre naturalmente ha portato e continua a portare, anche attraverso il movimento di navi da crociera, innumerevoli persone. Parliamo però di 4,000 ettari di territorio, peraltro non tutti calpestabili. Monte Rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. I nomi sono una litania che gli altoparlanti dei treni e delle stazioni ripetono indicando le mete in successione. Transitando dai finestrini è una sequela di cartoline che a sprazzi irrompono tra una galleria e l'altra della Tirrenica, declinando lo stupore in mille lingue. Perché qui la ferrovia è bella ed esiziale. La carrozzabile è infatti un altro filo sottile di cornice che talvolta le frane spezzano, e così la strada obbligata è ferrata, con le stazioni che sono piattaforme corte dove in certi giorni la ressa rischia di tracimare sui binari. E allora che fare? Con i primi soffi di primavera si è avanzata l'ipotesi di istituire il numero chiuso. Ancora il presidente del parco, Vittorio Alessandro. Sui sentieri sicuramente un problema di selettività degli ingressi lo poniamo, ce lo siamo posti e stiamo percorrendo questa strada. Sui borghi il discorso è più complesso, quindi è necessario però che attraverso l'offerta, la qualità dell'offerta, si possa qualificare anche il turismo. Non una selezione di censo. Assolutamente no, è una selezione di turisti consapevoli, quindi a prescindere dal portafogli, quello che a noi interessa è che vengano persone capaci di capire questa fragilità, questa storia che è irripetibile e di godere tutto quanto le Cinque Terre possano offrire. A Vernazza si fatica a camminare, è una fiumana di profili che disegnano un campionario di razze. Le voci dei commercianti e degli abitanti sono un collage che miscela opinioni e reazioni, che a suo modo traccia la peculiarità di una dimensione. Arriva chi ha più soldi, chi ne ha meno, ma è una fortuna avere troppa gente. E quindi bisognerà capire come fare meglio per non averne troppa. Ma averne tanta è già una bella cosa. Non voglio lamentarmi, perché tutto sommato trovo che mangiare mangiano, al bar vanno, ci sono determinati settori che magari soffrono un po' di più di questo tipo di clientela, però insomma non si può avere tutto nella vita. Il discorso del numero chiuso, se andiamo a vedere, non è una cosa corretta. Tutti hanno diritto di andare. Fossi io, non farei venire le navi da crociera. Quello è il turismo che non porta nulla. Comprano un gelato e vanno a casa, non comprano niente qua. È gente che arriva, guarda il paese e va via. Cosa penso? Che questi vengono, portano della gran spazzatura che paghiamo noi, e loro al cittadino non danno niente. Danno, certo, a quelli che sono nel commercio, li fanno miliardari. Ma perché abita qua invece non c'è nulla? C'è solamente uno svantaggio e basta. Non arriva comunque qualche vantaggio indiretto il fatto che comunque si viva sul turismo, che ci sia qualche posto di lavoro in più? Ma i posti di lavoro sono per quelli che vengono da Spezia, che vengono a lavorare qua. Noi per fortuna qua disoccupati non ne abbiamo. C'è chi si lamenta, comprano solo un gelato e se ne vanno. Lei ha una gelateria, può essere comunque contento. Per quanto mi riguarda vorrei assolutamente che la cosa continuasse. Certo, l'impatto è notevole, però insomma, del resto siamo avvocati per questo, dobbiamo lavorare per questo al meglio, cercando di conservare soprattutto quello che hanno lasciato i vecchi, però insomma non abbattiamoci, che continui. Cinque Terre, una lirica a celebrare i contrasti, Montale, ossi di seppia, girasoli, ondate, orizzonti in fuga, merigi pallidi e assorti. Vincenzo Resasco è il sindaco di due delle Cinque Terre, Vernazza, che fa comune, e Corniglia. Tutte e due bellissimi, uno arroccato in cima a uno scoglio, a una collina, è che per raggiungerlo bisogna fare circa 800 scalini. È uno sul mare, che diciamo così è quella un pochettino più caratteristica dal punto di vista che ha il porticciolo e anche dai tempi dei vecchi romani era appunto meta di traffici, perché aveva l'unico porto naturale delle Cinque Terre. Turismo di qualità, numero chiuso, numero aperto, selezione, lei come la pensa? Bisogna differenziare i flussi. Il turista giornaliero va differenziato dal turista che risiede nelle strutture delle Cinque Terre. Come? Il turista che risiede qua deve avere delle condizioni di agevolazione nei confronti del turista che arriva alle 9 del mattino, visita Vernazza fino alle 10 e mezza e va via. Questo non va bene. Porta via spazio vitale, e noi abbiamo bisogno di spazio vitale perché siamo tutti in verticale, non abbiamo pianure. Troppo turismo, a mio avviso, poi danneggerà il turismo. Sindaco in trincea di fronte alla fragilità conclamata del suo territorio, dove l'equilibrio, già precario, è minacciato dallo spopolamento, dall'abbandono progressivo della campagna, dall'emergenza sociale della quale prima parlava il presidente del parco. Abbiamo un territorio fragilissimo che diventa ancora più fragile perché purtroppo gli eventi atmosferici di questi ultimi anni lo dimostrano, noi l'abbiamo pagata sulla nostra pelle col 2011, e questo territorio è fragile e dobbiamo, soprattutto noi abitanti delle Cinque Terre, tutti gli abitanti delle Cinque Terre, fare un patto per poter investire una parte dei soldi che arrivano dal turismo nell'agricoltura. Per mantenere questo però bisogna evidentemente portare i giovani a fare i contadini. Sì, portare i giovani a fare i contadini, ma è molto difficile quando è molto più facile guadagnare sul turismo, perché guadagnare affittando una camera è molto più facile che guadagnare producendo l'uva, che poi non fa subito in produzione. Dobbiamo unire le forze locali anche con dei progetti, con delle esperienze di lavoratori che possono venire anche da fuori. Perché? Per esempio non utilizzare i giovani extracomunitari che noi accogliamo alla Spezia, con la Caritas, e portarli a lavorare nelle Cinque Terre. Sarebbe una forma di reddito per loro, sarebbe anche una scuola per poter imparare, sarebbe anche integrare queste persone in un ambiente che ha bisogno di presenze. A Rio Maggiore, l'ultima terra prima che la costa arrivi a Porto Venere e Le Grazie, altri gioielli già incastonati nel Golfo della Spezia, da giugno a guidare il comune c'è una donna cresciuta nel borgo. Si chiama Fabrizia Pecunia, distilla l'orgoglio di un'appartenenza e di una condizione che si sublima nel suo vino, lo Chaquetrat. Noi siamo definiti contadini con le spalle verso il mare, perché in effetti la nostra storia guarda più la campagna che non la parte relativa alla marina. Lo Chaquetras è un vino delle nostre coste, una peculiarità che noi difendiamo e di cui siamo assolutamente orgogliosi. È estremamente impegnativo, non tutta l'uva è utilizzabile per fare lo Chaquetras. Comunque storicamente tutti noi abbiamo coltivato l'uva e fatto nelle nostre cantine lo Chaquetras. È un gioiello che difendiamo. Il futuro nel nostro caso passa dal passato, noi siamo molto orgogliosi della nostra cultura e di quello che i nostri avi ci hanno regalato. Fabrizia Pecunia è il sindaco della Via dell'Amore tra Rio Maggiore e Manarola, passaggio celeberrimo, come si diceva, ancora sbarrato. Per riaprirlo ci vorranno tempo e denaro, non è ancora chiaro quando, ma finalmente qualcosa si muove. Il ministro dell'Ambiente e anche l'assessore regionale Gian Pedrona alle infrastrutture si sono espressi per finanziare il ripristino della Via dell'Amore. Io ho sempre dichiarato che i finanziamenti per la riapertura dovessero essere pubblici, perché la gestione della Via dell'Amore deve rimanere al comune di Rio Maggiore insieme al parco, insomma lo valuteremo. Entro settembre dovrebbe arrivare il finanziamento per il progetto e a questo punto poi sapremo anche la cifra precisa che sarà necessaria per il lavoro complessivo. Ma anche il mare merita rispetto e chiede aiuto. Roberto Benvenuto è il presidente della comunità marinara. Noi chiediamo una vera salvaguardia del territorio, e per noi il mare rappresenta il territorio, che va da uno studio approfondito e scientifico su basi scientifiche del perché il mare in questo momento non gode di ottima salute. Noi infatti proponiamo delle pose a mare di opere per il ripopolamento ittico, degli studi approfonditi sul perché certi tipi di flora e certi tipi di fauna purtroppo, ahimè, non sono più presenti nel nostro territorio. Chiediamo un'assoluta garanzia per quello che riguarda la qualità delle acque marine. Quando chiediamo le dighe non chiediamo protezione alle barche, le dighe per noi delle Cinque Terre rappresentano veramente l'ultima difesa dagli agenti marini nei confronti dei nostri paesi. Fragile e insidiato, il gioiello delle Cinque Terre ha tante facce dello stesso splendore, che abbaglia ancor più forte se si arriva da lontano, anche se l'affollamento spaventa. And it would be more beautiful if it weren't so crowded. Questa turista venuta dalla Florida dice che sarebbe tutto ancora più bello se ci fosse meno folla. Non pone invece condizioni la giovane coppia di australiani, per la quale la bellezza delle Cinque Terre trionfa comunque e ovunque. I think it's amazing. We've absolutely loved our time here. The food is incredible. A very special place. One of our favorite in Italy. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.